Salvo, sto facendo la diretta e non lo so, dobbiamo ancora iniziare. Salve a tutti, noi invece abbiamo iniziato da Radio Antenna Migrante, sono Giulio, siamo in diretta con la Festa dei Popoli 2020, special anti-Covid edition, siamo emozionatissimi, qui ci siamo Giulia Scalone al microfono, Tony alla console e siamo collegati con la pagina Facebook della Festa dei Popoli e stiamo partendo. Questa che sentite di sottofondo è la voce di Antonio. Ok, Tony mi dice no, possiamo iniziare perché stanno... Eccoci alla Festa dei Popoli Special Edition 2020 e anche noi abbiamo avuto qualche... difficoltà nel ritrovare la strada giusta per seguire la Festa dei Popoli del 2020, questo strano 2020. Ritorniamo con allora, l'audio della festa. Benvenuti anche a voi, fratelli della Romania. Benvenuti a questa speciale edizione. Voi invece da dove siete collegati? Mi sentite? Ci siete? Quest'anno ci vuole un po' di pazienza per chi ci segue, ma... noi ce la stiamo mettendo tutto, ma non è semplice. Non vi sento? No? Siamo... Ok, c'è qualche problema con la Romania. Allora mi piaceva ricordare le parole della nostra eccellenza che parlava del vaccino dell'amore. Non esiste parola più bella come cura contro il razzismo. Ecco, dovremmo vaccinarci un po' di più, un po' tutti, perché è solo l'amore che può vincerci e farci diventare una grande famiglia. Se c'è un problema c'è padre Gabriel che è pronto? Perdonateci, ma la piazza manca a voi, ma manca anche a noi. Non è semplice andare avanti senza il calore del vostro affetto, le vostre mani, i vostri applausi. E Tony alla console tecnica. È una Festa dei Popoli particolare. Manca la piazza a tutti, la grande piazza che abbiamo visto e abbiamo seguito l'anno scorso con Radio Antenna Migrante. E dalla piazza della Concordia di Salerno e la lunga giornata della festa dei popoli giorgiana che quest'anno si sta riproponendo in una forma digitale che può arrivare ovunque ma aumenta esponenzialmente la possibilità di avere qualche errore tecnico anche perché come le altre edizioni. Prego, tanto siamo a distanza, la nostra distanza sociale. L'audio che sentite di sottofondo è gli interventi della comunità georgiana che interviene adesso. Ci sentiremo più avanti nel corso della festa. A Salerno, mi scusi, non parlo bene italiano. Non c'è problema, non c'è problema. ci volete salutare, ci volete raccontare come avete vissuto il vostro lockdown? No, molto difficile per me parlare questo, per questo... Ah, ok, allora era soltanto un saluto di padre. Mi scusi. Ok, allora il nostro applauso e il nostro calore va alla comunità georgiana. Allora, grazie per la vostra presenza, grazie. Allora, perdonatevi, c'è l'imam, ok, è in diretta? Ok, allora mandiamo un contributo video e poi ci risentiamo fra giusto 2 secondi. Ecco, si ripropone la formula della Festa dei Popoli, dove ogni comunità presenta il proprio paese e quest'anno appunto i contributi vengono fatti in questa veste digitale. Manca la piazza, manca tutti, c'è una parte quest'anno, c'è una parte che appunto sta inviando i contributi un po' a distanza, altri sono nell'istituto dell'ufficio Migrantes di Salerno, e sulla pagina Facebook della Festa dei Popoli potete vedere i contributi video. E adesso stanno fioccando anche tantissime interazioni e quindi è un po' complicato per noi raccontare quello che sta accadendo, perché appunto internet si sta esprimendo nel miglior modo possibile. E c'è Antonio Bonifacio collegato. Ah, un po' da lontano. Eccolo. Non si vede che siamo chiari. La Romania. Colleghiamoci con te. Mi sentite? Benvenuti? Parlo con i fratelli della Romania, vero? Mi sentite? Sei in diretta? Sì, siamo in diretta. Mi sentite? Sentite il mio benvenuto a questa edizione speciale. Ciao! Ciao, ciao! Quest'anno non mi fate ballare, mi mancano i vostri balli. Quest'anno no, quest'anno mancano anche a noi. Ma voi dove siete? Da dove vi state collegando? Rossa, Romena, Salerno. Ok, ci dite in breve come avete vissuto questo periodo difficile del lockdown? Andiamo dentro che è più fresco e là ci siamo pronti. Ok, vi state spostando, ho capito bene, perché non è che sento molto bene. Faceva troppo caldo. Come? Noi siamo abituati al calore della piazza. Vi andate a nascondere? Ci sentite? Quest'anno, sì, io quest'anno vi sento benissimo. Deciso, dove vi siete andati a nascondere? Si è deciso di avere pronto, appunto pronto? Una postazione fissa che coordina le diverse comunità sparse sul territorio. Ok, vabbè, eravamo abituati al calore della piazza. E adesso sono in collegamento con la comunità della Romania. Vi conosco tra le immagini Andrea Pascuta, che è stata una delle voci che è intervenuta anche a Radio Antenna Migrante. Mi raccontate in breve come avete vissuto questo periodo difficile del lockdown? Il tema, come sentite, per tutti. Avvicinatevi al microfono. Perché di quello che è appena male, trascorso e che speriamo bene. Non dovremo più trascorrere. È un po' difficile per tutti, ovviamente. Okay. Ma, abbiamo stato con la speranza e con tanta fede, pregando per i malati, per i medici e infermieri che hanno fatto in questo periodo un sforzo straordinario per tutti noi. Ma ringraziamo a Dio, adesso si sta meglio. Ok, voi ci siete sempre stati dal primo anno a questa Festa dei Popoli. Volete raccontare anche ai nostri amici il perché partecipate alla Festa dei Popoli? Noi partecipiamo alla Festa dei Popoli per far vedere le nostre tradizioni, la nostra cultura, il nostro meraviglioso paese ricco di fortezze, castelli, cose naturali, luoghi molto belli. È molto, cioè, belli. E visto che ci siete anche quest'anno in un modo un po' speciale, cosa ne pensate di questo modo social di fare la Festa dei Popoli? A me, a dire vero, non piace molto mondo virtuale, perché è meglio vedere le cose dal vivo, però in questo periodo ormai ci dobbiamo arrangiare. Torneremo a riabbracciarci, meglio di niente, almeno siamo presenti e ci siamo, ma torneremo presto a riabbracciarci, e anche con una festa dei popoli che sarà ancora più scoppiettante di altre. Noi ve lo promettiamo e spero che ci sarete anche voi. Nel frattempo, se ci volete raccontare in breve, parlando ancora di questa pandemia, qual è la situazione nel vostro paese? Allora, per la situazione del paese di Romania vi posso dire che aggiornato ieri, il giorno 27, c'erano intorno a 23.000 casi di coronavirus, 1.600 decessi, di meno di fronte all'Italia, perché Romania ancora è più lontano di Italia. E ci lasciamo con un augurio e un saluto? Sì, a tutti quanti, lo può far dire Andrea. Allora, un augurio, speriamo che l'anno prossimo ci ritroviamo ovviamente in condizioni migliori, speriamo che l'anno prossimo la situazione migliori e speriamo ovviamente di ritrovarci tutti come sempre alla Festa dei Popoli, che forse è il periodo migliore, soprattutto il momento migliore per incontrarci tutti, per dimostrare al mondo quanto è bello essere diversi e quanto sono belle le culture diverse. Ciao. Certo, la diversità è ricchezza. Ciao, ciao ragazzi, vi abbraccio forte e adesso vedremo il video della comunità. Ecco che scorrono le immagini della Festa dei Popoli 2019 con la piazza gremita e, come in altre occasioni mi è capitato di vedere, si fa fatica a reggere il confronto con la situazione attuale, perché è una piazza strapiena di persone, Piazza della Concordia a Salerno, e tutti sono molto vicini, si abbracciano, si salutano, chiaramente non c'è le mascherine. Ora passa l'immagine del bellissimo spettacolo musicale che fu fatto sul palco, dove appunto uno dei balli tipici, così come avviene in molte culture, è quello di tenersi e muoversi all'unisono tenendosi assieme le mani. Sono gesti di cui stiamo riscoprendo l'importanza e la vitalità, nel senso di quanto sono vitali per gli esseri umani, e c'è gente che balla sotto al palco, insomma tutto quello che, per cui siamo abituati a chiamare qualcosa festa, e anche quello che storicamente, da quando l'uomo cammina sulla terra, probabilmente ha lo stesso significato di oggi. Lo stiamo riscoprendo, questa è la veste social che, come dicevano proprio prima negli interventi che avete sentito, non convince tutti, a tutti manca qualcosa, e meno male che così, perché effettivamente manca qualcosa a tutti. Non manca il calore e la vicinanza sicuramente, e l'impegno e l'attenzione degli organizzatori, e non mancano tanti volti amici, non mancano i messaggi importanti che stiamo ascoltando. Continuiamo la nostra Festa dei Popoli, ecco, collegandoci sempre in questa modalità social completamente nuova e dovuta alla situazione attuale con la comunità delle Filippine AFUS. Ci siete? Mandiamo prima un video che presenta questa comunità e poi ci colleghiamo. Siamo con Nancy della comunità filippina. Allora, siamo davanti a un gazebo pieno di oggetti in cui... I nostri artisti fanno tutta questa roba riciclata, anche perché è roba che non puoi usare, però è diventata bella, come bomboniere, come altre cose. È molto importante. Per esempio, questa vecchia borsa, hanno messo tutta questa decorazione per essere elegante, belli e presentabile. Senti, la comunità filippina è piuttosto numerosa e partecipa numerosa alla Festa dei Popoli. Avete addirittura due gazzelle. Ecco, questa era la voce voce di Michele Piastrella, un nostro caro collaboratore di Radio Antenna Migrante, ed era raccolta nella piazza proprio l'anno scorso, quando l'abbraccio dei gazebi delle diverse associazioni alla piazza permetteva di vedere l'artigianato tipico, i costumi folcloristici di ogni paese e appunto in sottofondo al bellissimo, alle video delle bellezze paesaggistiche delle Filippine. La parola invece, torniamo nel 2020con le Filippine. Buona scuola. Buonasera, benvenuti. Buonasera. Allora, siamo curiosi, da dove vi state collegando? Dove siete? Siamo in campagna. Ah, che bello, che bello, siete al fresco, fa caldo anche lì. Allora parliamo uno per volta, altrimenti diventa un po' complicato. Allora, questo periodo è stato molto difficile. Come ha vissuto la vostra comunità il lockdown? No, non ho sentito. Dicevo. Dicevo, questo periodo è stato molto complesso per tutti noi. La vostra comunità come ha vissuto il lockdown? È molto difficile. Alcuni sono rimasti a casa senza lavoro e certo, alcuni sono andati al lavoro con autocertificato. Certificazione. Sì. Certo. Certamente l'impatto anche economico è stato pesante. Speriamo di risollevarci tutti quanti molto presto. Voi partecipate da sempre alla Festa dei Popoli. Cos'è che vi spinge ogni anno a partecipare e incontrare tutti noi, le altre comunità? Perché partecipate ogni anno? Sì. Sì, perché vogliamo anche integrarsi con le altre persone, con altre comunità. Sì, ogni anno fate una grande festa insieme a noi. È una grande festa che incontriamo tutti con altre comunità, altri paesi, quindi conosciamo altre persone. Certo, certo. Certo, e cosa ne pensate di questa modalità social? Un po' difficile. Difficile perché lontano gli altri, preferisco anche che siamo insieme vicino a festeggiare. Non è la stessa cosa. No. Torneremo l'anno prossimo ancora più forti, ancora più pieni di allegria. Qual è la situazione al momento nel vostro paese? Qual è la situazione al momento nelle Filippine, nel vostro paese? Come vanno le cose? Ah, sempre quel lockdown. Sì. Uguale, è invece peggio di là. Ancora c'è mascherine, non è come qua in Italia che è già un po' libera. Sono ancora nel pieno, insomma, della difficoltà. Quarantina. Capisco. E allora facciamo un grande augurio a questo punto. Fate un grande augurio al vostro paese e un po' a tutti noi della Festa dei Popoli. Grazie mille. A tutti voi anche, auguri. Chiediamo, allora adesso c'è un vostro contributo che mandiamo in onda e così ci salutiamo. Grazie Filippine Afus, all'anno prossimo. Grazie a voi. Auguri di nuovo. Grazie. Ecco, rientriamo ovviamente in questa veste, credo molti di chi, delle persone che stanno, tante delle persone che stanno ascoltando hanno sperimentato i problemi tecnici di questi mesi chiusi tra smart working e gruppi WhatsApp e dirette Facebook, quindi si sa bene a quale difficoltà si va incontro e ascoltiamo la bellissima voce delle Filippine. Mm-hmm. E buonasera alla comunità ucraina. Ci siete? Vi sentivo parlare, ci siete? Mandiamo in onda adesso un piccolo contributo della comunità ucraina e poi dopo ci salutiamo e ci scambiamo giusto due parole. Paesaggi meravigliosi dell'Ucraina scorrono nelle immagini del video che introduce la comunità, l'associazione, ed è un omaggio a tutte le persone che si trovano a vivere in Italia e a cui manca ovviamente il loro paese. Sono immagini che credo che si sia, almeno da parte nostra è così, spero di non dire cose assurde, ma credo davvero che con alcune delle persone, degli organizzatori della Festa dei Popoli che abbiamo avuto modo di conoscere in quest'anno e poco più di vita di Radio Antenna Migrante, si è creato un bellissimo rapporto, e appunto tante persone che lavorano dietro le quinte alla Festa dei Popoli le abbiamo conosciute di persona, e, allora, e riprendo qua, dopo questo discorso che voleva essere romantico, benvenuto a voi. Diamo la parola all'Ucraina. Sento la voce di Olga? Mi sentite? Benvenuta comunità dell'Ucraina. Mi sentite? Dove siete? Sì, vi sentiamo. Ok, parlo con Olga, vero? Sento la voce? Pronto, pronto? Mi sentite? Sì, sentiamo. Ok, allora dove siete? Da dove ci salutate? Sul terrazzo di un palazzo che si vede bene Salerno. Siamo in una posizione bellissima, troppo sole, siamo tutti... Vabbè, Olga, ci mancava il sole della piazza, allora siete comunque in terrazza, lo avete lo stesso il sole. Esatto. Ci volete raccontare in breve come avete vissuto questo brutto periodo, questo lockdown? Abbiamo vissuto, diciamo, senza incontri, senza quel lavoro che abbiamo... Siamo abituati a fare sempre, era difficile, veramente difficile. Ci mancavano le nostre prove, le nostre gite, i nostri incontri, veramente. Sì. Chi lavorava, chi ha lavoro fisso, lavorava senza uscire di casa. Chi faceva servizi non lavorava proprio, veramente era un periodo dolce. È stato un periodo duro, immagino, per un popolo così attivo come il vostro non è stato semplice. Ma torneranno i tempi belli, torneremo anche noi a cantare e a ballare in piazza, Olga. E anche voi siete tra le comunità sempre presenti a questa Festa dei Popoli. Volete raccontare ai nostri amici perché ci siete, perché siete presenti? Perché è normale, perché è una situazione che noi possiamo vederci insieme, andare a abbracciare, stringere la mano, sempre vogliamo conoscere diverse culture e far conoscere la nostra cultura, perciò veramente è molto importante. Certo, quest'anno è un po' difficile, è un'edizione social, ma torneremo a riabbracciarci. Cosa ne pensate di questa edizione social? Non ci piace per niente, però siamo organizzatori. Sono per tutti aver scontenti, dato questa possibilità, perché? Almeno farsi vedere, però non è cosa, no. Certo, certo, Olga, hai ragione, è un po' l'opinione di tutti, è un modo comunque per dire ci siamo, siamo presenti, siamo vicini, però ci manca tanto la piazza, ballare, cantare insieme, incontrarci, toccarci, abbracciarci, è tutta un'altra storia, ma lo rifaremo, noi promettiamo di esserci e ci sarete sicuramente pure voi. Ci lasciamo con un augurio da parte vostra e un saluto. E poi dopo sappiamo che vi esibite in diretta, non ci sarà un vostro contributo, ma vi ascolteremo con tanta ansia. Se ci lasciate prima della saluto, saluto. Tutte le nazionalità, tutti i popoli, e speriamo che l'anno prossimo ci vedremo da vicino. E magari prima, sì, speriamo ancora prima di un anno. Quindi un saluto a voi tutti, vi lasciamo con l'esibizione. Grazie. L'esibizione dal vivo non è un ci contributo lasciate con un canto, Olga? Registrato. Sì, sì, sì. Stanno per ok, quindi un auguro speciale il vostro wow, canto. Ok, ci sono grazie. Mani che si alzano dai video, fantastico. Ed è in diretta, questo è in diretta, non è un contributo registrato come prima. Buon ascolto. Але серце ми на Україні, друзям привіт і ці рідні. Вас вітає широко калина, щастя бажає і добра. Надігнала всіх любов до пісні, Україно, матінко моя. Вас вітає широко калина, щастя вам бажає і добра. Нас зібрала всіх любов до пісні, Україно, матінко моя. Звикли ми до вуличок салерно, запах моря мімо горить світ. І в картини, і в красові гори виграшають наші добрі стріни. Нас ворочки. Символ української краски, хай почує нашу пісню рідні, мов зіночки наші голоси, вас вітає широко калина, щастя вам бажає і добра, нас зібрала всіх любов до пісні, Україно, матінко моя, вас вітає широко калина. Щастя вам бажає і добра. E la diretta credo ecco riprende forse. Ecco, sì, è finita sul finale. Bene, grazie alla comunità ucraina che come sempre ci delizia con il suo canto, con la sua presenza. E ora continuiamo con la diretta. Dovremmo avere in diretta Antonella Mattei in collegamento, direttore artistico della Festa dei Popoli di Roma fino al 2016. Antonella, sei con noi? La stiamo aspettando, è il bello della diretta, poi con i social... È ancora più bello. La attendiamo. Sta arrivando. Intanto, ecco, abbiamo già fatto una bella carrellata. Abbiamo già incontrato varie comunità. Le Filippine, abbiamo incontrato l'Ucraina, la Georgia. E quindi, ecco, ci stiamo già, diciamo, scaldando, anche se con questa modalità così strana, così nuova per noi. Antonella è arrivata? Antonella, mi permetto di darti del tu, ci sei? Non sento. Ancora non c'è? Benissimo. Intanto noi facciamo vedere la bellissima maglietta della Festa dei Popoli 2020 Special Edition, tutta colorata che abbiamo regalato al nostro arcivescovo. Ogni anno noi abbiamo una maglietta che viene disegnata e che rappresenta con un logo quello che la festa vuole comunicare. Anche quest'anno abbiamo una maglietta che vedete è il simbolo proprio del microfono, della telecamera, proprio estremamente social. Okay, Antonella, ci sei? Pronto, ecco. Ciao, mi permetto di darti del tuo? Assolutamente sì. Antonella Mattei, in collegamento con noi, direttore artistico della Festa dei Popoli di Roma dal 2016, fino al 2016, giusto? Fino al 2016, per più di 20 anni. Mamma mia, allora ci batti, ne sono pochi anni. Fino al 2016 e poi ho continuato su Roma e poi invece ho continuato comunque a presentare un po' in giro per l'Italia e all'estero altre feste dei popoli, insomma. Quindi benissimo. Abbiamo continuato. Quindi veramente un bagaglio di esperienze incredibile. Sì, devo dire che mi sento fortunata per tutto quello che mi ha arricchito davvero in questi anni. E quindi speriamo di incontrarci presto dal vivo a questo punto. Assolutamente sì, lo dico sempre ad Antonio che bisognerà fare qualcosa insieme. Assolutamente. Allora io ti chiedo subito, cosa rappresenta per te la Festa dei Popoli, cosa rappresenta in generale? Guarda, in realtà la Festa dei Popoli, anche sin da quando è partita qui su Roma, è stato sempre un ponte, è stato un ponte tra le culture, un modo per poter creare famiglia davvero, sin dai primi tempi, insomma, sin da quando è nata, perché ricordiamo che la Festa dei Popoli di Roma è partita come iniziativa della famiglia scalabriniana all'interno delle diverse parrocchie dove erano presenti gli scalabriniani e delle comunità migranti dove gli scalabriniani appunto facevano il loro servizio. E inizialmente erano effettivamente alcune comunità italiane, altre filippine, altre latinoamericane. Poi col tempo ci siamo allargati un po' a tutte le comunità presenti su Roma, quindi alla fine è diventata davvero una grande famiglia, per cui direi che questa festa rappresenta, penso, dappertutto un ponte esatto, tra le diverse culture. Tra l'altro Roma per tradizione è proprio la città degli scambi, dell'intercultura da sempre, da quando è nata, forse la città più cosmopolita di tutte per certi versi, no? Assolutamente sì, e lo dimostra anche il fatto che con gli anni da festa parrocchiale ingrandita è diventata una festa diocesana, perché l'abbiamo praticamente festeggiata negli ultimi anni sempre in piazza San Giovanni in Laterano, quindi la grandissima bellissimo piazza, e abbiamo addirittura avuto dalle 10.000 alle 12.000 presenze. Caspita, mamma mia, numeri per noi ancora impensabili, ma speriamo che anche qui si abbia, certo non siamo Roma, però insomma ci lavoreremo, ecco. Sono sicura che ci riuscirete. La voglia c'è, la volontà c'è, tutto, insomma, siamo forti, ce la faremo a fare anche noi questi numeri, forse no, però ce la metteremo tutta. Ti faccio una domanda invece un po' più di estetica, tra virgolette. Sì. La Festa dei Popoli esprime anche la bellezza artistica dei popoli, di un popolo, visto che appunto siete occupata come direttore artistico di questo evento. Certo che sì, perché pensa che la parte artistica in realtà c'è sempre stata, negli anni si sono aggiunte le altre parti, no? Quindi quello che riguarda la cultura, la gastronomia, eccetera, eccetera, ma la parte artistica è stata sempre la principale, sotto, diciamo, varie forme, varie specie, quindi dalle forme d'arte del ballo a quello della musica, del canto, o anche delle diverse attività che venivano fatte all'interno di una comunità. Quindi rappresentato sempre davvero la comunità in tutto, anche perché poi ballando e attraverso i balli tipici vengono fuori appunto i vestiti tradizionali. Ho visto adesso gli amici della Romania, quindi ho visto tantissimi, quindi bellissimo, è stato anche un po' come tornare in piazza, quindi assolutamente sì. Sì, ma infatti ogni anno abbiamo un tema e un anno sono stati proprio i costumi tipici, no? Oppure i balli, i giochi, c'è tutto quello che fa parte dell'arte, della cultura di un paese in qualche modo. Assolutamente, guarda, la caratteristica, dico sempre, della festa è stato il fatto, io dicevo, avevo sempre questa visione, penso anche per voi, dal palco, di vedere davvero una famiglia mondiale, dove per la prima volta praticamente ci si chiedeva indicazioni sui costumi, sui balli, sulle tradizioni, sulle culture, proprio per cercare di arricchirsi anche delle cose dell'altro, di scoprire, ecco. Quindi dico sempre che abbiamo una grande fortuna e io mi sento fortunata. Ho girato il mondo stando a Roma, stando a casa, ho girato il mondo. È il bello anche di Roma, no? È il suo dono, che però veramente io auguro a ogni città di poter vivere una festa dei popoli così bella e così grande, perché è davvero un momento di scambio importantissimo. Noi la viviamo ormai da 12 anni, ma è davvero così. E tu ci insegni, ecco, che si possono avere tantissime persone che sono pronte a incontrare le altre comunità, a conoscerle, a mettere da parte ogni pregiudizio. Quindi questa è sicuramente una cosa importantissima, soprattutto oggi, ecco. E allora noi ti ringraziamo tantissimo per il tuo contributo. Ti invitiamo, l'anno prossimo ti vogliamo qui, allora. Oh, volentieri, mi prenoto, davvero, davvero, volentieri. Benissimo. Vengo, volentieri. D'accordo, ti aspettiamo. Grazie allora. Grazie mille, io faccio grazie un saluto, un in bocca al lupo a tutti voi e con grazie. Voi ringrazio anche, saluto tutte le comunità con cui quest'anno non è stato possibile fare la Festa dei Popoli in tutta Italia, e un saluto particolare agli amici di Brescia che hanno vissuto un periodo particolare con il Covid, e quindi da loro anche il mio saluto e un arrivederci all'anno prossimo. Grazie, abbracciamo anche noi tutti quanti, grazie mille, buon proseguimento. Grazie, grazie Antonella, ciao. Ok, adesso passiamo da un ospite a una colonna portante di questa Festa dei Popoli, una pietra miliare, una grande special guest. Antonio Bonifacio, stanco? Buonasera a tutti. Buonasera a tutti. Benvenuti a questa festa di special edition. Sì, siamo un po' di corsa. Allora, Antonio, cosa ci vuoi raccontare? Da dove vuoi partire? Visto che è un anno speciale, è un anno diverso, è un anno anche un po' difficile, perché come stanno dicendo anche tutte le comunità, sì, è bello perché è un modo comunque di incontrarci, è importante perché ci siamo presenti, siamo vicini a loro, però la distanza fisica si sente, è una mancanza, manca la piazza, manca il calore, mancano gli abbracci, manca la presenza. Beh, io partirei da tutto quello che invece abbiamo, la bellezza di aver voluto questa festa, questa speciale edizione, perché noi sogniamo ancora di vederci in piazza, speriamo che ad ottobre tutto sia passato, quindi potremo tornare in piazza come un po' tutti gli eventi particolari. Però ecco, ci tenevamo comunque a giugno a vederci, anche se in questo modo speciale ma nuovo, che ci consente anche tante interazioni. Abbiamo visto dei collegamenti, quindi, che ci hanno aiutato. Abbiamo un panorama nuovo, che è quello del Golfo di Salerno, non solo la piazza. Tutto questo sicuramente è ricchezza. E abbiamo anche uno staff che si è messa all'opera dal punto di vista dello studio delle tecnologie, quindi per trasmettere tutto questo in diretta Facebook, in diretta YouTube, in diretta Radio Antenna Migrante e anche con Telediocesi. E quindi questo modo nuovo, ecco, è il bello e il positivo di quest'anno. È vero che non siamo in tanti come gli anni scorsi in piazza, ma siamo collegati in tanti. Quindi diciamo che il tema di questa speciale edizione può essere connessioni, quindi che sono col... Sono? Perfetto. Ovviamente, ecco, mi piace di costruire comunque il percorso di quest'anno. Siamo partiti a settembre con le prime riunioni, avevamo anche deciso un tema che non vi preannuncio perché così manteniamo la sorpresa. Ci siamo visti a ottobre, a novembre, abbiamo preparato anche una festa per il Natale. Certo, ricordiamo che sono comunità che comunque si incontrano durante tutto l'anno. La Festa dei Popoli è soltanto un momento gioioso per stare insieme, ma le comunità seguono durante tutto l'anno dei percorsi precisi, si scambiano auguri, si scambiano eventi, si scambiano feste. La Festa dei Popoli è solo un momento gioioso per stare insieme in piazza e per presentare sempre le loro tradizioni, la loro cosa, ma è un percorso che dura tutto un anno. Sì, infatti, ecco, abbiamo continuato ogni mese a vederci. Anche durante il lockdown ci siamo incontrati con la piattaforma Zoom, proprio per non rimanere distanti e distaccati. E questo ci ha aiutato anche a preparare questo evento. Ecco, ci vede qui. Siamo un po' affannati dietro come staff perché, ecco, è la prima volta che trasmettiamo in diretta e cerchiamo e speriamo che tutto vada bene. Anche con le comunità, ecco, ci cerchiamo di connetterci, la spesso la rete salta, ma poi fortunatamente ci risiamo. Quindi vi auguro una buona visione, continuate a seguire la Festa dei Popoli per incontrare queste comunità che sono sempre presenti nel territorio salernitano. A breve ci collegheremo appena siamo pronti per con una comunità nuova, quindi anche comunque c'è un nuovo ingresso, per cui speriamo che anche questo collegamento vada bene, stiamo cercando di risolverlo. Oggi è una bellissima giornata, quindi anche il sole e la giornata ci assiste. Avremo ancora numerosi ospiti, dalla regia mi fanno segno che dobbiamo attendere un collegamento che non riusciamo a stabilire, ma come dicevo, non è possibile fare nemmeno un balletto perché dobbiamo avere la distanza sociale, altrimenti come dici, dalla regia faceva un come ci dicevano, il bello della diretta, appena mi fanno segno, quindi e allora facciamo così, nell'attesa di questo colomello Nella, vogliamo cogliere l'occasione per dell'iniziativa sì. Certo. Allora, come Consulta dei Popoli, ma anche come diocesi, ufficio Migrantes, Caritas, abbiamo sostenuto e sottoscritto la campagna Io Accolgo. Questa campagna è una campagna nazionale che sostiene, ecco, la voglia e la cultura dell'accoglienza, quindi fare scelte precise, politiche, ma anche legislative, per consentire di vivere in maniera serena, pacifica, questa convivenza futura che dobbiamo vivere nel nostro paese. Io Accolgo quindi una campagna nazionale che prevede una raccolta firme per invitare, ecco, il legislatore a mettere in atto dei strumenti legislativi che consentano questa convivenza pacifica, che promuovano ovviamente una cultura dell'accoglienza. Stare insieme significa interagire, che è un po' il motto che è stato sempre della festa, la famosa interazione. Agiamo insieme per vivere questo tempo e questa storia e per vivere bene anche il nostro paese. A tal proposito, ecco, vi invito a visitare il sito della campagna www.ioaccolgo.it, a leggere l'appello che sicuramente è pieno di significati, pieno anche di principi, e a sottoscrivere l'appello, nonché a stimolare altri amici a sottoscrivere questo appello e anche, perché no, a invitare le istituzioni, quindi i comuni di appartenenza, ad aderire a questa campagna, perché sia veramente una campagna che miri alla crescita del nostro paese dal punto di vista anche della cittadinanza, dei diritti, perché sicuramente tutti dobbiamo vivere serenamente il luogo in cui abbiamo scelto oggi di vivere, che per tanti non è quello natio, ma può essere sicuramente quello del proprio futuro. Ok Antonio, grazie. Resta presente, sì. Non stancarti troppo. Allora, il prossimo ospite, il prossimo paese ospite è la Thailandia. Un attimo solo che metto l'auricolare così mi connetto con loro. Perdonateci, ecco. Ci siete? Ci sono i nostri amici della Thailandia? Va bene, nel frattempo io non so se è collegato padre Alex, mi saluto i miei thailandesi. E ne approfitto anch'io per dire che la festa è sempre un'occasione per raccontare la ricchezza culturale, le tradizioni e la storia dei nostri paesi di origine, per scoprire dei punti di contatto e per scoprire quanto è bella la diversità. Sta a noi coglierla e vivere questo momento come gli altri, che anche questo è un momento appunto di diversità, ma la diversità non è altro che ricchezza. Ok, non ci sono, aspettate, perdonateci se siamo un po' lunghi stasera. Abbiamo sentito ma poco fa le parole proprio di Antonio, i collegamenti Bonifacio, e chiaramente a tutti manca la piazza, ma Antonio ha fatto bene a sottolineare anche quali sono le potenzialità che questa modalità offre. È chiaro, non è una riproposizione della festa in formato virtuale, è tutt'altro, e ci sono c'è la possibilità di sentire l'organizzazione della Festa dei Popoli di Roma, che chiaramente ha numeri e formati diversi, ma quest'anno è qua con noi, ci ha raccontato qualcosa in più. C'è questa iniziativa che è partita nel 2019 di Io Accolgo, c'è una nuova comunità che partecipa, quindi la festa si è anche allargata e sicuramente questa situazione non durerà per sempre, però nel frattempo è il modo migliore per ritrovarci, per non far disperdere anche tante forze che nel corso di tutto quanto l'anno lavorano sull'integrazione, lavorano per continuare ad avere un legame con i propri paesi di origine, lavorano per far ramificare la loro cultura in un contesto nuovo, diverso stanno citando Radio Antenna Migrante. E ancora su Diocesi Salerno, wow. Al canale del digitale. Esatto, la festa quest'anno, voglio dire, ha esploso tutti i canali di comunicazione, quindi è possibile vederla, ascoltarla in qualsiasi angolo remoto del mondo. Tutto sommato questo può essere una cosa positiva, non buttiamo tutto del web. Perdonateci, ma... Nel discorso lacrimevole che provavo a fare prima, ci tenevo a ringraziare, oltre che Antonio, tutte le persone che lavorano dietro le quinte e che abbiamo avuto modo di conoscere in quest'anno di Radio Antenna Migrante. Sì, eccoci qua. Mi sentite? Eccoci. Amici della Italandia, mi sentite? Wow. Forse loro non mi sentono? Abbiamo un collegamento, dateci... Noi sentiamo delle bellissime campane delle 18:32, mi fanno segno. Questo per segnalare a tutti che siamo effettivamente in diretta, forse con qualche secondo di latenza. Purtroppo abbiamo anche una scaletta, quindi non sono pronte le altre comunità? Una scaletta lunghissima. Ok, allora nel frattempo facciamo una cosa, vi mandiamo il video della comunità del Marocco, così ci delizziamo e ora si passa dal Marocco. Dei luoghi fantastici. E poi vediamo chi ritroviamo, ci accompagnano anche le campane, vabbè, è festa, è domenica e le campane sono sempre sonore uguale per tutti, a quanto pare, sia qui da Moglie della Civitella, da Pellare, dove trasmettiamo noi, sia a Salerno. Partito il video? Video del Marocco. E continuando il discorso di prima, come non ringraziare una delle colonne di Radio Antenna Migrante, Bahia La Hub, che ci ha traghettato in diversi scenari. Lei è una persona splendida, è lì impegnata adesso in questo momento, e dicevo, sono stati anni ricchi in cui abbiamo un anno ricco in cui abbiamo potuto conoscere persone straordinarie. Dal Marocco, noi abbiamo seguito, realizzato una serie di podcast che si chiama Orizzonti, e l'idea era proprio quello di provare ad aprire una finestra su tante persone che non sono nate né a Salerno né in Campania, ma che vivono questi territori, li stanno trasformando, li stanno arricchendo, e assolutamente in linea con il tema della festa dei popoli, dove si celebra la diversità ma soprattutto l'unicità di ogni persona e del contributo che ognuno può dare al posto in cui vive per renderlo unico. Ecco, da questo brutto periodo una ripresa serve a tutti, e ritorniamo con non riescono più a connetterci, ce l'avamo ma li abbiamo ripersi. Dove siete? Dove siete? Dove vi siete? Da dove state collegandovi? Li abbiamo ripersi, sono riscappati gli amici del Marocco. Ok, ci siete? Mi sentite, amici? E lo so che non è semplice, chiediamo scusa a chi ci sta seguendo con un'infinita pazienza, ma ci siete, amici del Marocco? Se qualcuno parla? Sì, io vi sento. Mi sentite? Sono Antonella, mi sentite? Sì, sì. Eccoci qua allora, benvenuti, benvenuti. Ce l'abbiamo fatta. È stato un lungo parto. Io vi abbraccio e vi do il mio benvenuto a questa speciale edizione della Festa dei Popoli. Voi dove siete collegati? Da dove ci state seguendo? Allora noi dai missionari saveriani. Scelto missionari saveriani per essere vicino alla piazza della Concordia, vedendola di qua, e l'emozione sono le stesse. Allora, come avete vissuto questo periodo difficile del lockdown? Della Concordia. Ok, ma mi sentite? Provate ad avvicinare il microfono perché vi sentiamo male. Ok. Ok, adesso vi sento meglio io. dalla regia mi dicono che vi li sentite adesso? Sì, sì. Ok, perfetto. Se ci raccontate un po' come avete vissuto in breve, logicamente, questo brutto periodo del lockdown, questo periodo di chiusura. Sì, allora inizia a raccontare Sara. Ciao Sara, benvenuta. Grazie. Allora, all'inizio, sinceramente, la situazione era molto difficile da accettare, anche perché non sapendo la situazione vera di la malattia, evitavamo di vedere il giornale per non sapere i numeri di morti contagiosi, però con le amiche della mia comunità marocchina abbiamo creato un gruppo e ci siamo aiutate a vicenda e poi ci abbiamo cambiate pure le ricette, così ci No. Ecco, sì, sì, infatti abbiamo tutti qualche chiletto di troppo, abbiamo mangiato e siamo tutti un po' in sovrappeso, diciamo. Allora, anche voi siete stati quasi sempre presenti a questa manifestazione della Festa dei Popoli. Ci volete raccontare il perché scegliete di essere qui? Sì, perché siamo qui? Salve a tutti, buonasera. Allora, noi partecipiamo... Con chi parlo? Presentati, con chi parlo? Hussein. Ok, benvenuto. Grazie. Allora, noi partecipiamo a questo evento che ci permette di conoscere nuove culture e tradizioni di altri paesi, che ci permette di stare insieme e vedere culture, il cibo che viene cucinato e mangiato in altri paesi, e altrettanto facciamo lo stesso anche noi, facciamo conoscere la nostra cultura. Certo, quest'anno mi mancano i vostri abiti così colorati, sono sempre una fan dei vostri abiti. Abbiamo cercato di mettere colori diversi, anche se siamo pochi, ma ce l'abbiamo fatta, un po' di giallo, rosso, grigio, verde. Ecco, portiamo un po' di colore, anche se oggi per fortuna è una bellissima giornata. Poi magari vi rubo una promessa, perché prima o poi vorrò indossare un abito verde o malo. Penso che anche Manu sia d'accordo. Prima che hanno partecipato al podcast Orizzonti di Radiante Inna Migrante, loro hanno srotolato la loro bandiera rossa con la stella dorata e indossano gli abiti tipici come tutti delle altre comunità, che sono la domanda di rito a tutti. La bellezza di questo bello nuovo modo sarebbe che siamo riusciti a fare la Festa dei Popoli, e quella è viva. E questo è un punto importante, certo. Purtroppo manca dell'interazione tra di noi. Il saluto, l'abbraccio, il ballo, mancano tante cose, però l'importante è che ce l'abbiamo fatta a vivere anche questo pochi minuti, però abbiamo messo i vestiti, ci siamo sentiti che siamo in festa. Diciamo che mancano tanti sensi a questa festa, però c'è il cuore che è la cosa più importante. Ci siamo, continuiamo ad esserci, a volerci bene, ad abbracciarci virtualmente, ma con il cuore e con i sentimenti penso che sia l'abbraccio più importante, perché è un abbraccio vero. Stiamo aspettando il giorno in cui riusciamo a abbracciarti Ok, nel frattempo quindi iniziate a pensare agli abiti che indosseremo l'anno prossimo e che metterete da parte per me e per Manuela, perché è una promessa che vi ho strappato e mi raccomando dovete mantenere. Se ci volete raccontare in breve anche com'è l'attuale situazione nel vostro paese di origine. Allora, il nostro paese vive forse le stesse sensazioni che viviamo pure qua. Il Marocco è stato un po' fortunato perché il re ha deciso di fare i confinamenti presto. Allora, già quando è stato il primo... sono riusciti a chiudere, a tenere sotto controllo la situazione, quindi... tutte cose, le attività sono bloccate, le scuole, allora non siamo arrivati a un numero altissimo dei casi, però purtroppo c'è sta. Certo. Il virus sta in giro purtroppo in tutto il mondo. Certo. Anche loro hanno iniziato un pochino a liberarsi, perché solo l'altro giorno che hanno finito la quarantena, sarebbe questo periodo che abbiamo visto fuori noi. Abbiamo iniziato a respirare, ad aprirci un po'. Sì, un po' difficile, però lo sapete, quando anche rimaniamo per 3 mesi a casa, poi quando esce non è facile adattarsi anche con la nuova realtà, soprattutto certo, con la mascherina, lo spostamento senza saluto. Un po' difficile, però conviviamo. Noi, questo che è la cosa fondamentale, che in qualsiasi situazione in cui cadiamo, cerchiamo di convivere. Di rialzarci, certo, e dobbiamo allungarci le mani innanzitutto e aiutarci tra di noi per questa ripresa. Ci date quindi, ci lasciate con un vostro augurio, prima di vedere il video dell'edizione scorsa, un video appunto della comunità marocchina, ci lasciate con un saluto e con il vostro augurio? Certo, sì, certo. Con chi parlo? Chi me lo fa il saluto? Speriamo che il prossimo anno facciamo questa festa di popoli più alla grande con altri vestiti nuovi, diversi, molto colorate, e balli nuovi, infatti. E sono tutti, i vestiti sono pronti, eh? ok, metteteli da parte, quindi uno per me e uno per Mano, di sicuro, va bene? Certo. Un nuovo modo per incontrarci. Veramente, grazie a tutti voi, grazie per il lavoro che fate, in bocca al lupo. Ciao. In bocca al lupo e un abbraccio forte anche a tutta la vostra comunità. Da parte mia, di Manu e dello staff, vi abbracciamo forte e vi lasciamo con il contributo della vostra comunità. Un abbraccio. Venite, cari. Ciao. Ciao. L'altra sponda del Mediterraneo ci fa ascoltare un meraviglioso intervento musicale dell'anno scorso, dalla piazza. Ok, siamo pronti. Allora, siamo di nuovo in diretta e adesso accogliamo una comunità completamente nuova. Ecco, in questa 12ª festa dei popoli, completamente diversa dal solito, abbiamo con noi la comunità della Thailandia. Ci siete? Ciao. Thailandia. Ciao. Ciao a tutti, benvenuti alla nostra festa dei popoli. Ci sentite? Sì. Grazie, benissimo. Allora, siete con noi, è una grande gioia vedervi partecipare, anche se in questo modo così strano, attraverso i social, sentirvi e vedervi così. Vuol dire che l'anno prossimo saremo tutti insieme, in piazza, ci contiamo, vero? Non vi sento? Sì. Sì, allora noi gradiremo un vostro saluto, ecco, visto che non possiamo abbracciarci dal vivo, vorremmo sentire un vostro saluto, ecco, con la promessa di vederci l'anno prossimo dal vivo. Ci avete salutato, grazie. Ok, io purtroppo non vi vedo, però vi sento benissimo. E allora, niente, comunità della Thailandia, ci vediamo l'anno prossimo, è una promessa, vero? Vedere questi costumi meravigliosi della Thailandia, coloratissimi. Vi aspettiamo in Piazza della Piazza, come ogni anno, con tutte le comunità, ovviamente. Questo è il vostro ingresso ufficiale nel mondo della Festa dei Popoli, che è una grandissima famiglia, allegra e colorata. È l'ingresso della Thailandia. Grazie mille alla Thailandia, grazie. Un abbraccio fortissimo per ora virtuale, grazie. Ciao, ciao a tutti. Presentiamo adesso un nuovo membro dello staff, che è il nostro Michel, dico bene? Allora, adesso è qui, è uno dei pochi che abbiamo in presenza. Mi abbasso, sennò mi sgridano che non mi vedono. Prego, Michel, accanto a me. Eccolo qui. Benvenuto, Michel. Lui è un membro dello staff, ci sta aiutando tantissimo per questa diretta, è il nostro cameraman. E allora, prima domanda, da dove vieni? Allora, vengo dal Camerun e mi chiamo Michel Talla. Ok, e quando sei arrivato in Italia? In Italia sono arrivato dal 19 giugno del 2017, qua a Salerno ovviamente. Bene. Allora, la domanda che ti faccio, cosa fai oggi in Italia? Allora, in Italia, essendo immigrato, non ho lasciato tutto, comunque continuo con lo studio, mi sono diplomato da poco e spero continuare a studiare, andare all'università, fare ciò che mi piacerebbe fare e per il momento sto aspettando ancora. Benissimo, è anche un bellissimo messaggio il fatto di voler continuare a studiare, a fare tante cose, ecco, non fermarsi mai. E qui la domanda successiva è, quali sono i tuoi sogni per il futuro? Allora, i miei sogni per il futuro sarebbe prima cosa finire lo studio e seconda cosa lavorare, anche se lavoro, ma comunque diciamo part time, visto che comunque c'è la scuola e tutto, e anche perché non avere una famiglia. Certo. Sarebbe importante, visto che essere con una famiglia è sempre meglio che essere solo, no? E su questo e il futuro sto pensando ancora, non è certo, ma comunque lo aspetto. Lo aspetti. Ti posso chiedere quanti anni hai? Ho 19 anni, che l'ho fatto il 27 aprile di quest'anno, visto che sono nel 2001. Mamma mia, giovanissimo, ci fai sentire tutte vecchie qua? Bene, e allora, vedi, hai parlato di due sogni, no? Che stai costruendo giorno dopo giorno, ma giusto una domanda che adesso sono curiosa, è una mia deformazione professionale, cosa vorresti studiare dopo? Quello ancora sto pensando perché ho parecchie scelte in testa, allora visto che mi sono diplomato da poco, non è cioè, ciò che vorrebbe fare è una cosa che richiede tanta concentrazione, tanti anni di studi e visto che non sono troppo portato, allora preferisco scegliere qualcos'altro, magari in scienze della comunicazione o scienze della politica, sarebbe meglio. E devo dire che sei veramente molto bravo nella comunicazione, quindi io te lo auguro di realizzare tutti i tuoi sogni e di trovare, ecco, la tua strada qui in Italia con noi, se questo è insomma il tuo desiderio. Grazie mille Michel, grazie per il tuo contributo e adesso continuiamo con la Polonia. Si vola in Polonia. Ritroveremo sicuramente la voce di Anna, credo sarà anche lei al termine di questo video. È difficile non pensare a lei guardando i video con le bellezze della Polonia. Riprendiamo il messaggio di Caterina Tenore che scrive: special edition quest'anno, ma la Festa dei Popoli è sempre stata special. Un abbraccio a tutti. Effettivamente è così. C'è chi si lamenta delle mascherine, del distanziamento sociale, chiaramente è uno sforzo non da poco riuscire a trovare il giusto equilibrio tra persone che vivono assieme, che vogliono esprimere la loro gioia e alcune indicazioni che stanno cambiando rapidamente in questi giorni. Ok, benvenuti, buonasera amici della Polonia. Ecco la Polonia. Buonasera a tutti. Ci fate sentire anche da lontano il vostro calore, il vostro saluto? Sì. Sì. Ciao, ciao, ciao Anna, ciao. Ciao a tutti. Un abbraccio virtuale a tutti quanti. Sì, un grande abbraccio virtuale, soprattutto con il cuore. Ci mancate. Anche voi. Anche voi. Anche voi. Da dove ci state salutando? Dove vi siete connessi? Allora, siamo qua a Campigliano, qualche chilometro da Salerno, perché tante persone vengono proprio da questo posto, tante famiglie italo-polacche. Benissimo, quindi un altro bellissimo luogo. Mi sentite? Sì. Ah, ok, ok. La domanda che ho fatto anche ai vostri amici, come avete vissuto questo momento difficile del lockdown, questo momento di chiusura? Salve, buonasera a tutti. Penso un po' come tutti gli altri, chiusi in casa ovviamente, chi studiava da casa, chi faceva lo smart working. Abbiamo cercato di individuare anche le persone della nostra comunità bisognose. Qui approfitto di questa opportunità per ringraziare appunto Ufficio Migrantes della diocesi, perché abbiamo avuto diversi casi dove appunto abbiamo avuto aiuto e sostegno da parte della sempre, certo, sempre presente e sempre vicino a noi. Assolutamente sì. E per il resto un po' come tutti abbiamo vissuto. Certo, è stato un periodo difficile che speriamo di superare presto e soprattutto di rialzarci presto. Anche voi siete una comunità che è stata sempre presente alla Festa dei Popoli. E volete raccontare ai nostri amici perché scegliete di esserci, perché partecipate a questa festa così importante per noi? Allora, noi siamo presenti alla Festa dei Popoli dalla prima edizione, 11 anni fa, e siamo felici di fare parte di questa grande famiglia. È stato un bel percorso che abbiamo fatto insieme. Prima ci siamo guardati, poi ci siamo raccontati, alla fine ci siamo conosciuti. Adesso cerchiamo di usare questa conoscenza, queste relazioni che si sono stabilite per poter fare qualcosa di buono insieme. Quindi passiamo all'azione, questo è il nostro obiettivo per stare meglio tutti insieme. Certo, perché ricordiamo ai nostri amici, a quelli che ci stanno ascoltando nelle varie dirette, che la Festa dei Popoli è soltanto, appunto, come dicevamo anche con Antonio, un momento di festa, ma voi continuate durante tutto l'anno ad avere relazioni, ad avere rapporti e scambi anche con le altre comunità presenti sul territorio, non soltanto di Salerno, ma della Campania, vero Anna? Esatto. Esatto, la cosa bella della Festa dei Popoli è proprio il percorso, cioè lo stare insieme continuamente. Noi ci vediamo ogni mese con tutte le comunità, quindi ci conosciamo sempre meglio e speriamo di, conoscendoci bene, cerchiamo di mettere... È un viverci più profondo, è proprio uno stare insieme che va al di là, ecco, di questo momento di festa. Esattamente, quindi come dicevo prima, ci sentiamo ormai parte di questa bella famiglia. Vorrei approfittare e fare un appello a tutti i nostri connazionali che si trovano. Prego Anna, hai tutto il tempo per farlo, prego, prego. Aspettiamo la prossima volta in presenza, vi aspettiamo numerosi dal vivo. Assolutamente. Certo, certo, infatti una delle domande è proprio quella, come vivete questo modo social, la festa? Ringraziamo gli organizzatori perché comunque ci fanno essere vicini, però come vivete questo momento voi comunità, questo momento social? non è facile, ci manca, ci mancano gli abbracci, ci manca lo insieme, però cerchiamo di le come dire, parole di Anna sono chiaramente un social, quindi, un manifesto di lucidità che non si possono non sottoscrivere del, sul passare all'azione, sull'essere una famiglia, su quanto è importante questo momento di ritrovo, su quanto lavoro c'è dietro. Usando questi nuovi mezzi di ci rendiamo anche conto certo, di qual è la difficoltà tecnica di organizzare un evento del genere, è veramente da folli, ma sta andando tutto benissimo, insomma, quindi certo, considerando le difficoltà, i tanti collegamenti in spazi diversi, c'è cioè veramente forse non dico più degli altri anni, ma rispetto agli altri anni lo stesso impegno che si vede anche dal punto di vista tecnico per garantire a tutti il, la possibilità di parlare, di esprimersi e farlo nel migliore dei modi. Questo modo di vivere. Questo è evidente, sta, è chiaramente una cosa che non è semplice fare. Anche la festa dei popoli in questo modo, proprio per dire noi ci siamo, è un momento che passerà, torneremo a ballare e abbracciarci di nuovo tutti insieme. È importante e apre spaccati inediti della nostra società, quella di sentire come se la stanno vivendo. Ecco, scusate il momento. Tutti i polacchi in Italia e in Polonia, ovviamente. Ovviamente. Ok, mi aggiungo ai vostri saluti. Vi bacio, vi abbraccio tutti. È uno spaccato la comunità italiana, molto anche interessante quello di lavoratori, di persone sì, che vivono questo territorio con qualcosa, dimmi scusami, cuore, ma i tempi purtroppo non, io non spazi sono geograficamente esperta, così distanti. Ringraziamo a tutti gli organizzatori perché sappiamo che non è semplice. Non è semplice. Esatto, ok. Sì, non è semplice, soprattutto quando non si è esperti è ancora più difficile, però ce la facciamo perché sono tutti esperti per quello che stanno facendo, bene, una cosa tecnicamente quindi complicatissima, quindi complimenti allora, davvero a tutti. Vi abbracciamo forte tutti da parte mia. È uno spaccato interessante quello di chi ha il cuore e la testa diviso da svariati chilometri di geografia, soprattutto in un momento di crisi del genere come la pandemia ci ha messo di fronte, perché non è emotivamente facile. Il contributo dell'anno scorso della Polonia. Buon ascolto a tutti. La gioia e la bellezza della Polonia. Sta andando tutto alla grande, allora, in questa edizione special. Allora, abbiamo diretta con noi, con grande piacere, Simoamed Kabur. Ho detto bene? Giusto. Buon pomeriggio a tutti. Beh, buon pomeriggio, che fa parte del coordinamento nazionale Nuove Generazioni Italiane. Benvenuto a questa festa dei popoli social. E volevo chiederti una curiosità, cosa significa proprio questa espressione che è presente nel vostro, nella vostra intitolazione in qualche modo, Nuove Generazioni Italiane? Allora, innanzitutto grazie e mi complimento con voi perché comunque grazie. State facendo veramente un grande lavoro, come dire, tessitura della comunità italiana in generale, con tutte le figure, le persone che lavorano. Allora, nuove generazioni italiane in realtà per noi significa, o è semplicemente sinonimo di Italia, però è un'Italia reale, con tutte le sue sfumature in termini culturali, sociali, professionali, ed è un po' l'espressione che abbiamo voluto fare nostra per portare all'attenzione della politica, delle istituzioni e anche dell'opinione pubblica, anche se poi in realtà nella, diciamo, la società civile, dal punto di vista della coscienza sociale e culturale, è un po' più avanti rispetto a quelle che sono le decisioni politiche. Abbiamo voluto in qualche maniera mettere in evidenza, cioè, tutte le figure italiane che oggi la rappresentano, quindi persone con background migratorio e quindi nuove generazioni italiane. La particolarità però di questa espressione è che non si rivolge solo alle persone di origine straniera, ma in realtà stiamo parlando di nuove generazioni italiane, diciamo a 360 gradi. Perché? Perché è chiaro che chi diciamo fa parte della generazione dei giovani nasce e cresce diciamo fianco a fianco con persone, ragazzi e ragazze con background diversi, però si condivide un unico percorso, o comunque si condividono molte ambizioni e aspettative nella casa, nella nostra casa chiamata Italia. Mi colpisce molto quest'ultima cosa che hai detto, perché è qualcosa che ho vissuto anche io, no? Vivendo, lavorando al nord in una città con tantissimi ragazzi italiani di seconda generazione, e il fatto che anche i ragazzi con un background completamente italiano, ecco, non saprei come esprimermi al meglio, fanno parte di queste nuove generazioni, perché crescono fianco a fianco, come dicevi tu, e non sentono assolutamente la differenza, ma anzi hanno voglia di conoscersi. Non so se tu concordi con questa mia valutazione. D'accordissimo, nel senso che nuove generazioni, infatti noi l'abbiamo usato per andare oltre l'espressione seconde generazioni, perché è chiaro che non possiamo parlare di una fetta, solo di una fetta dell'Italia, ma stiamo parlando di una generazione italiana, che è ben diverso, quindi è più ampio. Quindi d'accordissimo, e credo che il fattore fulcro di tutta questa trasformazione è l'interazione, e per cui nell'interazione si crea cultura, una cultura che sicuramente sta al passo anche con i nuovi diritti o le nuove figure che abitano la comunità. Esattamente, concordo pienamente, ed è un discorso molto molto importante che devono, secondo me, acquisire innanzitutto però i più adulti, cioè coloro che poi fanno concretamente l'istruzione, la partecipazione dei ragazzi alla vita di ogni giorno. Per i ragazzi è un discorso quasi innato, mentre per noi adulti a volte è un po' complicato, no? È vero, è vero. Tra l'altro, come dire, questa cosa dell'essere innato mi fa venire in mente un esempio che forse anche i più grandi sentono. Cioè, visto che da poco ho finito gli esami di maturità con alcuni miei studenti, ci siamo accorti, comunque abbiamo riflettuto su un aspetto. Per i giovanissimi, il nascere comunque in un'epoca in cui non ci sono i confini europei, è sottinteso. Invece per certo. I grandi, in realtà, che hanno vissuto quei confini, non è così sottinteso. Beh, nella stessa maniera, no? Certo, no, è verissimo, è tutto verissimo. Allora io ti chiedo, rispetto allo Ius Soli, che è questa questione ormai di cui si dibatte tantissimo, pro, contro, è diventato quasi un argomento anche di dibattito, quasi per esercitarsi al dibattito, no? Quanto è importante ottenere la cittadinanza per questi nuovi italiani che hanno un background migratorio? Grazie per la domanda, e riprendo alcune parole che hai usato, che trovo, come dire, giustissimo. Cioè, un ormai, quindi dire, continuare a sentire parlare di una questione che dovrebbe essere risolta. E quindi, come dici tu, è un continuare a esercitare il dibattito più che risolvere la questione. Beh, quanto è importante? È importantissima, perché la cittadinanza italiana è uno strumento di garanzia ed è uno strumento anche di pari opportunità per le generazioni giovani, comunque per le generazioni in generale. Perché? Perché, come sappiamo, vista la situazione, si parla di rientro, si parla di didattica a distanza, si parla di quello che dovrebbe essere una priorità, ossia la cultura, l'istruzione. Beh, bisogna anche tener conto che nel periodo della quarantena la scuola, che da sempre, come dire, microcosmo e spazio democratico più di ogni altro spazio, dove in qualche maniera le differenze si vedevano meno, con questo tipo sì. di quarantena si è vista di più la disuguaglianza. Assolutamente sì. Tra chi può e chi non può. E quindi la cittadinanza italiana è la garanzia alle nuove generazioni di sentirsi innanzitutto italiani e di rappresentare l'Italia all'interno dell'Italia e al di fuori, e soprattutto per costruire un futuro, come dire, condiviso, così come, come dire, sono i presupposti di questa festa dei popoli. Tra l'altro è un tema che davvero andrebbe portato sempre più alla ribalta, perché mi è capitato di notare che i ragazzi italiani non sanno che i loro coetanei, i compagni di classe, non hanno la cittadinanza italiana e scendono completamente dalle nuvole, danno per scontato che essendo nati qui ovviamente è qualcosa che gli spetta, e quindi ecco, sensibilizzarli, no? Giustamente, hai detto danno per scontato, ma perché sì. secondo una logica, nel momento in cui tu nasci e vivi, è come dire, in un luogo, dovrebbe essere logico che tu scontato che tu abbia la cittadinanza. Poi è chiaro che ci devono essere dei criteri, eccetera, però i criteri non possono essere, come dire, dei criteri esclusivi a un gruppo. Certo. La Costituzione parla chiaro rispetto a quello che è l'inclusione. Prima, è una questione di sì. generazioni. Se l'Italia la affidassimo a una generazione giovane, sicuramente risolverebbe alcuni problemi o alcune questioni non risolte come questa, perché è logico che chi nasce... Esatto, è logico, bravissimo. Senti, un'ultima domanda. Quali sono i progetti del Coordinamento Nazionale Nuove Generazioni Italiane per il futuro? Beh, i nostri progetti sono tanti. Noi ogni anno cerchiamo di lavorare su quello che è il nostro documento programmatico politico, che si intitola Manifesto delle Nuove Generazioni Italiane, dove per ambiti facciamo delle proposte alle istituzioni, agli enti istituzionali, sia a livello nazionale che internazionale. A livello, come primo punto, noi, la nostra prima priorità è la scuola e l'istruzione. Stiamo cercando ovviamente di tenere vivo e acceso l'attenzione sul tema della cittadinanza e su tutti quelli che sono i percorsi di inclusione, ma soprattutto su quelle che sono le opportunità per i singoli e per l'Italia di potersi rilanciare nella migliore maniera possibile, ma soprattutto di considerarsi una nazione all'interno di uno scacchiere, come dire, mondiale, ed essere, certo. come dire, un buon esempio e buon traino per altre società. Per cui chi vuole scoprire i nostri progetti sul nostro sito, quindi congi.it, può scaricarsi anche il manifesto, dove ci sono una serie di proposte. Comunque, attualmente stiamo lavorando, come dire, cercando di sensibilizzare le istituzioni e le figure politiche per tenere accesa, diciamo, l'attenzione sulla questione della scelta. Su queste problematiche, certo. Allora, invitiamo tutti coloro che ci stanno seguendo a seguirvi sul vostro sito, a seguire il vostro operato, che è importantissimo. Io ringrazio tantissimo Simo Ahmed Kabur per questo contributo veramente importante. Grazie infinite. Grazie a voi e saluti. Grazie. A presto. Grazie, buona serata. Buona serata. E adesso passo la parola ad Antonella, che ci presenterà un'altra comunità. No, ma adesso abbiamo un membro della Festa dei Popoli di Siracusa. Abbiamo in collegamento... Ecco che continuano i collegamenti da tutte le parti. Abbiamo ascoltato il congi, come dicevo prima, le difficoltà di chi è straniero, di chi è nato fuori, di chi ha una mamma e un papà che non sono nati in Italia, ma si trova a costruire la sua vita in Italia, le difficoltà sullo studio, sul trovarsi in un contesto che dà per scontato tantissime cose, tra cui anche tanti diritti che dovrebbero essere logici e naturali. E questa è la vera bellezza della Festa dei Popoli: riuscire a concentrare proposte e difficoltà a una società che ormai, che oggi è complessa, diversa, colorata, e che può migliorarsi con il contributo di tutti, soprattutto, e di accoglienza, perché la vera ricchezza è la diversità. Il diverso, non dobbiamo essere tutti quanti uguali, è proprio il diverso che ci fa essere più ricchi. È saltato il collegamento da Siracusa? con la seconda generazione, ricordiamo l'associazione Ubuntu, Nuove Generazioni Italiane, che sul territorio, nella provincia di Salerno, è molto attiva. Allora, Antonio, sentire questi spunti sull'importanza della sensibilizzazione e di portare a galla queste problematiche, no, anche per farle conoscere ai più giovani, gli italiani più giovani che magari hanno in classe ragazzi nati nel loro paese che parlano il loro stesso dialetto, ascoltano la loro stessa musica, si vestono come loro, appartengono alla loro generazione, ma semplicemente non hanno gli stessi diritti di cittadinanza. Questa è una strada fondamentale. E come diceva anche Anna prima, è il momento dell'azione, è il cammino. È quello che dà senso alla Festa dei Popoli Special Edition, anche in questa forma digitale. Sono riniziati i collegamenti. Pronto, mi sentite? Sì, buonasera. Buonasera, buonasera e benvenuti a questa edizione un po' strana ma importante della Festa dei Popoli. Con chi parlo? Salutiamoci almeno. Con Don Bettino. Don Peppino, il parroco di San Pietro a Caivano, e con il vescovo di Aversa, Angelo Spinillo. Ok, benvenuti alla nostra festa. Se mi passate, perdonate il mio... Pronto? Sì, mi sentite? Perdonatemi. Se ci accontate in breve la vostra Festa dei Popoli? Beh sì, l'abbiamo vissuta 2 giorni fa praticamente, e incontrando diverse, diciamo, rappresentanti di diverse etnie e anche di diverse confessioni religiose. Abbiamo vissuto un momento di condivisione gioiosa, certamente, di amicizia, di preghiera tra le diverse forme religiose, e abbiamo potuto anche vedere un po' le attività che svolge ciascuno di questi gruppi. Certo, quindi voi in che modo è stata svolta la vostra festa? Anche voi a distanza e social come la nostra? Sì, abbiamo quest'anno, abbiamo per nostra fortuna trovato i social che ci hanno aiutato, almeno per dare un segno di questa presenza che quest'anno poteva passare in sottotono. E quindi abbiamo fatto una serie di attività, sempre come attraverso i mass media, e abbiamo realizzato un convegno, abbiamo realizzato un incontro alle scuole, abbiamo iniziato anche con le parrocchie, abbiamo fatto una serie di attività come gli altri anni, però mentre gli altri anni erano vissuti in presenza, quest'anno abbiamo risolto tramite i social. Certo, è comunque un modo per esserci. Abbiamo fatto un pre, perché abbiamo detto tutto ciò che abbiamo fatto quest'anno nel territorio dove siamo stati quest'anno staremo l'anno prossimo di nuovo, perché diciamo abbiamo fatto due tappe nello stesso territorio, che noi stiamo cercando di andare ogni anno in un territorio diverso della nostra diocesi, in modo tale che avviciniamo tutte le presenze di stranieri, di capi religiosi, le varie zone della diocesi, con la presenza del vescovo, in modo tale che diventa sempre più propulsivo l'idea di chiesa presente accanto a chi viene da noi e viene, cioè, per chi vuole stare con noi, vuole vivere con noi la loro presenza e la loro vita. E quindi di conseguenza l'accoglienza è importante ed è fondamentale. E questo abbiamo cercato di fare. Un augurio a voi, perché avete realizzato una cosa stupenda, mi ha detto Antonio, e sono contento, perché l'anno prossimo cerchiamo di fare un ponte tra noi e voi, che forse conviene, perché così diamo più spazio alla nostra campagna per tutto ciò che deve fare e fa ultimamente con i nostri amici stranieri. Grazie. Certo, questo è soltanto un primo passo, un primo tassello, e poi creeremo questo ponte e ci riabbracceremo sicuramente e vivremo questo momento insieme. Voi da quanti anni portate avanti il progetto della Festa dei Popoli? Da quanti anni? Da quando Sua Eccellenza il Vescovo ha preso possesso. Sono 9 anni, 8-9 anni. Sì. Anche voi quindi, vabbè, state seguendo un bel percorso. Sì, per grazia di Dio, sì, sicuramente non solo un bel percorso, ma credo anche una bella testimonianza che diamo di presenza, che cerchiamo di dare a tutto il nostro territorio. Certo, perché è giustamente comunque un percorso, come dicevamo anche noi qui, che si attraversa tutto l'anno. La festa poi è un momento conclusivo, un momento di gioia, ma è un percorso pure voi, come dicevate, di accoglienza e che dura un anno intero, non finisce in una giornata di festa. Allora, noi vi salutiamo, speriamo di riabbracciarci tutti insieme l'anno prossimo, abbattendo queste barriere e creando questo ponte, come dicevate. Ringraziamo quindi il Vescovo di Aversa, il Monsignor Angelo Spinillo e Don Peppino, che è il coordinatore della FIDP. Noi vi salutiamo e vi abbracciamo virtualmente. Grazie, sì, un abbraccio a tutti quanti, arrivederci. Ci vediamo l'anno prossimo insieme qui a Salerno. Sì, d'accordo. Salve, un abbraccio, grazie per questo momento di condivisione. Vi salutiamo. Allora, staffetta velocissima, dovremmo avere in collegamento Ramsi Arrabi, membro della Festa dei Popoli di Siracusa. Buonasera. Sento molto lontano, però sento. Riusciamo a sentire un po' meglio? Un bellissimo collegamento da una sento macchina pochissimo. In movimento. Dalla regia possiamo fare qualcosa? Niente? Allora, intanto diamo il nostro benvenuto. Forte e chiaro. Benissimo, allora cercherò io di sentire un po' meglio, ci sono problemi qui sicuramente di connessione. Allora, intanto ringraziamo e diamo il nostro benvenuto perché conosciamo un'altra festa gemella, la Festa dei Popoli di Siracusa. Tra l'altro la Sicilia è da sempre una terra di migrazioni, no? Oggi ma anche in passato, è un crogiolo di culture che poi hanno creato la Sicilia attuale. Cosa rappresenta la Festa dei Popoli a Siracusa? La Festa dei Popoli a Siracusa rappresenta sicuramente un incontro alla pari fra tutte le etnie residenti nel luogo aretoseo, ed è un momento di riflettere su cosa vuol dire essere comunità, su il fatto che la diversità è una cosa bella, aiuta, diciamo, i nostri figli, noi stessi, ad essere persone migliori e con una flessibilità mentale abbastanza vasta. Sì, sì. L'italianità in sé è un concetto molto vago, non esiste. Cosa vuol dire essere italiano? Esatto, anche perché... Il calcio l'hanno inventato gli inglesi, la pasta l'hanno inventato i cinesi, il caffè li hanno inventati gli africani. Di quale Italia parliamo? Bisogna esatto. In qualche modo a rispolverare la parola italianità. L'italianità, esatto. Secondo me, è una cittadinanza attiva. Ci sono tanti migranti che meritano di essere più italiani nati qui. Cioè bisogna soltanto ad aiutarli nel loro percorso di appartenenza e nel loro sano e costante. Assolutamente, poi ecco, voi ci parlate dalla Sicilia, che è una terra di veramente di migrazioni da sempre, quindi parlare di sicilianità anche in senso stretto è possibile, no? Ci sono tantissime radici diverse, quindi veramente forse la Sicilia rappresenta più di tutto quello che vuol dire integrazione, fusione anche in qualche modo. Fusione più che integrazione. Diciamo molto sfruttata, ma la fusione sì. La Sicilia, in cui sono passate più di 13 culture, più di 13 civilizzazioni, esatto. Lasciando ognuna il bello e il cattivo di se stesso. Sì. Oggigiorno la Sicilia che vediamo è un frutto di un incrocio, di un intreccio sociale e culturale mediterraneo. Sì, no, concordo su tutto, anche perché effettivamente ecco, oggi stiamo veramente raccogliendo tante testimonianze della voglia, no? Di creare un'Italia completamente nuova, un'Italia più varia, più colorata, più aperta, e questo fa veramente ben sperare. È un lavoro che dobbiamo fare tutti insieme, a partire proprio dalle nostre feste dei popoli. Ma ecco, da quanti anni fate questa festa anche a Siracusa? A Siracusa da sei anni portiamo avanti questa festa. Con la Pastorale Migrantes, con tutte le associazioni, diciamo, fatte soprattutto da persone migranti loro stessi, perché il bello della festa dei popoli è questo. Che non posso chiedervi? Prego. Sì, voglio chiedere quali comunità ci sono, a questo punto sono curiosa. A Siracusa abbiamo comunità maghrebine, cioè algerine, tunisine, marocchine, abbiamo delle comunità senegalesi, comunità cingalese, cioè dello Sri Lanka. Sri Lanka. E abbiamo una grande comunità del Bangladesh. Ok, e quindi ecco. Comunità sì. Nigeriana con quattro chiese africane, varie diciamo culti, va? Bellissimo. Anche nell'Africa, anche se, essendo della stessa nazione, ci sono quattro percorsi mistici nigeriani a Siracusa. Meraviglioso, quindi tantissima varietà come un po' qui a Salerno. Allora noi ti ringraziamo Ramzi per quello che ci hai raccontato e adesso continuiamo il nostro viaggio verso il Venezuela. Grazie mille, vediamo buona serata. L'anno prossimo di essere da voi a Salerno. Speriamo, noi vi invitiamo, vi aspettiamo. Va bene. Va bene, buona serata. Ecco le nuove connessioni create con la Sicilia. Ora passo la parola ad Antonella che ci presenta il Venezuela, giusto? Certo. È fondamentale. Guardiamo appunto l'ibridazione alla base delle culture ed è piuttosto evidente in tanti angoli del nostro paese. L'ibridazione storica e storicamente c'è stata tra culture diverse che continua ad esserci e che è impossibile da ostacolare, oltre che io non riesco a immaginarmi ecco un paese dove non ci sia uno scambio culturale con persone che arrivano da altri paesi. Come veniva raccontato nella festa dei popoli, dalla Sicilia è fondamentale anche il ruolo che le diverse comunità hanno, il ruolo attivo che hanno nell'organizzare le feste, e questo è un approccio assolutamente da condividere anche nelle diverse iniziative che puntano all'integrazione e alla conoscenza di culture diverse. Siamo felici di avere diverse rappresentanze anche all'interno della nostra radio. C'era il video di sottofondo del Venezuela. E buonasera e benvenuti amici del Venezuela. Ed ecco il Venezuela appunto. Grazie. Mi sentite? Ecco, avvicinatevi al microfono. Buonasera, benvenuti ragazzi. Grazie. Hola a tutti, buonasera. Hola. Dove siete collegati? Dove state? Stiamo sul terrazzo nella sede dei Saveriani a Salerno. Ah, ecco, lui siamo vicini ma distanti. Sì. Vi saluta tutta la comunità venezuelana di Salerno. Anche noi vi abbracciamo forte, sperando di rivederci presto per ballare e cantare insieme con tutta la vostra grinta. Allora, vi faccio giusto qualche domanda. Come avete vissuto questo momento difficile del lockdown, di chiusura? Beh, abbiamo rispettato quello che erano le regole che erano suggerito dal governo centrale e anche dal governatore De Luca, quindi siamo stati in casa durante la quarantena. Abbiamo pensato molto al nostro paese, a quello che è successo, che stava succedendo anche nel mondo. Quindi vissuto con un po' di apprensione, anche però con preoccupazione anche per l'economia mondiale e del nostro paese, però comunque con la speranza sempre nel cuore di poter uscire da questa pandemia. Certo, anche voi presente negli ultimi anni alla Festa dei Popoli, perché ci siete? Perché partecipate alla Festa dei Popoli? Fate conoscere le vostre motivazioni anche agli altri e a chi ci sta seguendo. Sì, certamente. Guarda, la Festa dei Popoli consideriamo che è una manifestazione molto importante dove noi tutti uniti, non solo noi della ogni comunità, ma per poter condividere con le altre comunità le sue culture, conoscerla più a fondo, le sue tradizioni, le nostre tradizioni, e quello è importantissimo, come tutti nello stesso spazio, tutti uguali, senza differenza, senza frontiere. E questo è. A livello di unità, sì. Di la festa dei popoli è anche allegria, la festa dei popoli anche è un'opportunità per la nostra comunità venezuelana, che diciamo è recente, di far conoscere, no, forse no in italiano, farsi conoscere a livello territoriale, quindi ai salernitani e alla provincia. Certo. E sperando di rivederci presto e di rifare la festa in piazza, cosa ne pensate di questo modo social della festa dei popoli organizzata quest'anno? Diciamo che ci manca il contatto fisico con le persone, no? Però non esistono le barriere, ossia non esistono i limiti. In questo momento ci sono tantissime persone che ci stanno guardando, che stanno ascoltandoci. Diciamo che abbatte un po' le frontiere, ci vedono da tutti i paesi, ossia su Facebook, ci sentono sulla radio, o ci vedono in TV. Diciamo, ha il suo pro e il contro. Io direi che deve andare tutto uno dalla mano dell'altro. Certo, come diceva Antonio, cerchiamo di cogliere i lati positivi e la ricchezza che dà, perché abbiamo costruito altri ponti in questo momento con tutto il mondo. E ci raccontate brevemente anche la situazione che sta vivendo durante questa pandemia il vostro paese di origine? Sì, lamentablemente in questo momento stanno aumentando i contagi nel Venezuela, avendo tanti problemi già a livello sanitario, perché la sanità nel nostro paese non funziona come dovrebbe. Ci sono molte difficoltà. E certamente il popolo sta soffrendo di più in questo momento per la pace. Sono ancora certo in un momento difficile. Noi li abbracciamo e li salutiamo, se c'è qualcuno che ci sta seguendo anche dal Venezuela. Io, Manu e lo staff vi abbracciano forte, abbracciano tutta la comunità. Ci lasciate con un messaggio di auguri e un saluto per tutti? Adios a todos, spero de che non possiamo vedere in La Plata in ottobre. Aspettiamo di vederci in piazza, questo è il nostro desiderio. Alla ciao prossima, a tutti. Ciao. È il desiderio di tutti, vi abbracciamo forte virtualmente con il cuore. Ciao e grazie per essere presenti stasera. Ciao. Ciao. Ok, mandiamo il video della comunità del Venezuela. Si riprende l'estratto video dell'anno scorso del Venezuela con i vestiti e con la musica tipica del Sud America. E abbiamo riascoltato Janet, una voce anche qui amica e conosciuta per Radio Antenna, a Radio Antenna Migrante. Lo spaccato che ci ha raccontato, che qui arriva in toni drammatici del Venezuela e che abbiamo sentito nella preoccupazione di chi è qui. Noi stiamo in questo momento trasmettendo da Moio della Civitella, da quelli che furono gli storici studi di Radio Frankenstein, che abbiamo resuscitato per l'occasione, per seguire questa festa in diretta. E qui c'è una comunità di venezuelani dell'associazione italo-venezuelana che salutiamo e che con la quale seguiamo e condividiamo la preoccupazione di quello che sta accadendo in questi paesi dove l'emergenza del coronavirus si innesta su fragilità che arrivano da più lontano e e che chiaramente sembrano innescare una bomba sociale. Ecco che si rientra in diretta. Abbiamo di nuovo con noi la comunità della Thailandia. Ci siete? Ci siamo. Benissimo. Allora, ci ricolleghiamo e ci risalutiamo chiedendovi, ma da dove vi collegate? Da dove ci colleghiamo? Dove siete? Dove siete? Non vi sento. Collegando precisamente dal Parco Pinocchio. Ah, dal Parco Pinocchio, che bello! Quindi siete forse al fresco, forse? Sì. Ci state parlando comunque dal centro della nostra bellissima città. E volevamo chiedervi, in questo periodo così complesso per tutti, come la comunità thailandese ha vissuto il lockdown? Noi siamo state sempre a casa rispettando le leggi date dal governo per dare un contributo ai medici e alle infermiere. Quindi anche per voi c'è stato veramente un momento di estraniamento rispetto alla realtà quotidiana, penso sia stato molto difficile. Sì, è lo stesso per tutti. E ecco, cosa pensate di questa modalità social? Per voi la vostra prima festa dei popoli, com'è fare una festa tramite cellulare, tramite Facebook, Instagram? Di sicuro non è bello come fare insieme nella piazza, però è un modo comunque molto, molto simpatico, un buon modo per poterlo trasmettere dappertutto, anche quando in casa o fuori. Quindi ecco, è un inizio. E quindi cos'è? La domanda però è veramente nuova, nel senso, per gli altri la cosa vi spinge, vi ha spinto sempre a partecipare. Per voi è una novità. Ecco, cosa vi aspettate da questa festa dei popoli? Perché partecipare come comunità alla festa dei popoli? Vorremmo diffondere la bellezza della nostra cultura e fare amicizia anche con gli altri popoli. Benissimo, una cultura tra l'altro affascinante e tanto lontana, quindi noi veramente non vediamo l'ora di vedervi il prossimo anno con noi in piazza. Qual è la situazione al momento con il coronavirus nel vostro paese? Anche in Thailandia c'è stato un periodo di lockdown, però non ci sono stati molti casi, quindi speriamo che vada tutto bene. È abbastanza tranquilla insomma la situazione? Diciamo è come la stessa situazione in Italia. Ah, benissimo, quindi speriamo in una risoluzione insomma veloce per poter tornare veramente a una quotidianità e una normalità che ormai ci sembrano un miraggio, perché anzi neanche avremmo potuto immaginare 2 mesi fa di trovarci qui almeno a poter fare ecco una festa dei popoli social, ci sembrava impossibile, invece ci siamo, quindi che sia la speranza di tornare veramente a breve a riempire le piazze. Un'ultima cosa, ecco, vorremmo sentire da voi un augurio e un saluto. Ciao, grazie, grazie infinite, vi aspettiamo il prossimo anno dal vivo per abbracciarci finalmente e conoscerci di persona in Piazza della Concordia alla Festa dei Popoli. Grazie alla comunità della Thailandia, grazie mille. E ora la parola ad Antonella. Fra poco vedremo il contributo della nostra comunità, dei nostri amici della Tunisia. Ecco le immagini e la musica della Tunisia, bellissime. Ho il vago presentimento che troveremo anche qui degli amici noti a Radio Antenna Migrante, tra cui Dorra. E per tutti il tema chiaramente del coronavirus ritorna in modo prepotente, avendo scelto anche questa modalità. Non possiamo che fare i complimenti ai tecnici che stanno seguendo dalla regia a Salerno la festa dei popoli di quest'anno, tra contributi registrati dall'anno scorso, contributi che arrivano da collegamenti a volte molto precari, abbiamo visto anche quelli da Parco Pinocchio, dalla macchina, quindi non è così scontato. E vediamo in primo piano Dorra. Buonasera, buonasera amici della Tunisia. Wow. Buonasera. Ci siete? Buon ascolto a tutti. Buonasera a tutti. Visto che mi manca il calore della piazza, mi fate sentire il vostro saluto? Sento che siete in parecchi, me lo fate sentire con nostalgia? Bellissimo. Saluto tipico. Vi devo dire la verità, è emozionante, mi manca la piazza, mi manca sentire il vostro calore, questo saluto ha fatto davvero bene al mio cuore. Da dove vi... Sì. Da dove vi state connettendo? Noi siamo a Eboli, da una... Sì, ci ha ospitato la nostra amica a casa sua e quindi siamo tutti collegati da qua, dalla zona industriale. Ecco, c'è qualche difficoltà di connessione che sta riprendendo. Difficile come per tutti noi, ma alla fine meno male che anche grazie al lockdown abbiamo saputo stare insieme tramite social media, e quindi sono nate anche iniziative molto belle in rete, si sono creati gruppi di sostegno per le famiglie in difficoltà, gruppi di informazione per la comunità tunisina, soprattutto dare informazioni, non lo so, per chi voleva ritornare in patria, che doveva fare, e altre informazioni per le persone che lavorano e tutto. Ma certo, siete riusciti a creare dei canali per aiutarvi praticamente anche grazie ai social. Sì, sì, assolutamente. E voglio approfittare per salutare il gruppo 100.000 tunisini, che è nato proprio in periodo di lockdown. È un, bene. Ecco. Mi aggrego allora anch'io al saluto a questo nuovo gruppo. Quando nasce qualcosa è sempre qualcosa di positivo. Allora passiamo alla domanda successiva, visto che anche voi negli ultimi anni siete molto presenti alla Festa dei Popoli, diciamo ai nostri amici che ci seguono perché partecipate alla Festa dei Popoli. La Festa dei Popoli è un momento di incontro, e, sai, durante l'anno tutti lavoriamo, è un momento che ci dà la spinta di essere insieme. Allora, come oggi, e tutti erano molto contenti di stare ancora una volta, ecco. Cerchiamo il momento di condivisione, di calore e di festa, di generosità. Certo. E quindi cosa ne pensate di questa nuova iniziativa, di questa Festa dei Popoli social, visto che non è possibile incontrarci in piazza? Allora, è un momento bello che anche un piccolo gruppo siamo insieme, ma diciamo che preferiamo la versione in piazza, quella più colorata, più festiva e più generosa. Anche così va bene, però diciamo che per un'eccezione va bene, ma preferiamo la piazza, la musica, i colori, gli odori, e toccarci, abbracciarci e festeggiare tutti insieme. Certo, su di questo siamo tutti d'accordo, su questo punto, ma torneremo a farlo e faremo una festa più in grande degli altri anni, con tutte le comunità. L'ora. Ci saremo, non vi preoccupate, la faremo. Nel frattempo continuiamo i nostri percorsi di incontri. E ci raccontate un po' anche in breve com'è la situazione attuale nel vostro paese, come stanno vivendo questo momento difficile e che problemi ci sono in questo momento? Allora, la Tunisia da poco ha riaperto le frontiere, diciamo la situazione paragonandola con quella italiana è meno, sono stati meno casi, colpiti. A oggi sono 1100 casi con 50 morti, però il governo ha subito mandato il paese in lockdown nelle prime settimane e quindi ha salvato la situazione. Sono nati altri problemi, quelli delle persone che volevano ritornare in patria, le persone che residenti si sono trovati bloccati in Italia o magari in altri paesi europei, e quindi sono ancora bloccati sia in Francia, in Italia, che magari non hanno riuscito a prendere l'aereo militare e ci sono nati anche altri aspetti amministrativi purtroppo legati a questa emergenza. Ok, allora grazie per questa testimonianza importante. Ci grazie salutate e ci lasciate un augurio da parte della vostra comunità. Scusa, non ho sentito. No, non ti preoccupare, tranquilla, sono i problemi legati alla connessione. Dicevo, se ci salutate lasciandoci con un augurio. Sì, ci auguriamo di vederci presto e di trovare magari una migliore situazione brevemente, inshallah. Inshallah, come si dice da noi. Inshallah, ok, perfetto. Io vi abbraccio Manuele e tutto lo staff, sperando di vederci presto alla prossima edizione della Festa dei Popoli. Adesso godiamo di un piccolo filmato, un momento delle edizioni scorse della Festa dei Popoli. Un abbraccio e grazie per la vostra preziosa presenza. Un abbraccio, fatemi sentire il vostro saluto. Grazie, a presto. A presto, ciao. A presto. Buonasera Don Paolo, siamo in diretta. Benvenuto alla Festa dei Popoli 2020 Special Edition. Ok, grazie, saluto. Ecco, Don Paolo è il cappellano etnico della comunità cinese cattolica in Italia. È una cara persona che abbiamo conosciuto, ecco, 3 anni fa, perché lui è referente nella Fondazione Migrantes. E oggi, ecco, siamo riusciti a collegarci proprio per questo primo contatto con Don Paolo e quindi con la comunità cinese cattolica in Italia. Quindi speriamo poi che le prossime volte ci riusciremo a incontrare, superato questo problema del coronavirus. Quindi, sì. Caro Don Paolo, io ti ringrazio di questa disponibilità. e quindi anche della disponibilità della comunità cinese che abbiamo visitato insieme ad alcuni amici l'anno scorso quando avete aperto la chiesa a Napoli. Adesso ecco, passo la parola a Manuela per le consuete domande, ecco, per conoscere un po' di più la vostra esperienza, e grazie di nuovo per esserci collegato. Don Paolo, mi sente? Salve, a Manuela, saluto. Salve, salve, è un piacere averla qui con noi. Grazie, sì, mi piace anche io. È la prima volta che abbiamo la comunità cinese con noi alla Festa dei Popoli. Sì, prima, no, con la seconda volta. Ah, ok, Antonio, perfetto, Antonio, è vero. Pochi anni fa. Ok, e Antonio è sempre il tramite fantastico con tutte le comunità. Ci auguriamo di avervi presto poi dal vivo, ovviamente, con noi. Scusa, non ho capito. Ci auguriamo di avervi presto dal vivo con noi, l'anno prossimo magari. Speriamo, io volentieri. Speriamo. Allora, come vive oggi la comunità cinese presente in Italia? Allora, per noi cinesi in Italia, da Milano, nord, sud, no? Roma, Milano, Prato, Rimini, comunque abbiamo, ci sono 8-9 comunità cattolici cinesi. Abbiamo lavorato quasi da 2007, Papa Benedetto XVI, con feste, preghiera per la Cina, 24 maggio, da 2007 fino ad oggi, quasi 13 anni. Così noi abbiamo lavoro, inizio otto comunità, nuove comunità. Ci sono tutte comunità, ci sono capellani. Noi lavoro per tutti i capellani nella parrocchia, sotto di parrocchia. Comunque questo momento in Italia più o meno ogni capellano ci sono... Milano ci sono 100-200 cattolici, Prato più o meno anche 150, anche Roma 100 più o meno, anche Rimini poco di più, Napoli più o meno 100 anche. Comunque noi comunità quasi cerca quasi uguale, 100 più o meno anche poco di più. Però questo, adesso ci sono virus, abbiamo poco lento lavoro, speriamo la virus più passato. Poi iniziamo per la nostra missione, sì. Certo, immagino che ovviamente in questo momento sia difficilissimo incontrarsi anche per lei svolgere il suo operato. Sì, per noi, come dire, noi tutti stranieri, no? Ci sono tante cose più difficili di italiani. Però noi dobbiamo con la fede andiamo avanti. Io adesso coordinatore per tutti i comuni, per comunità cinese in Italia. Comunque io ho salutato qualche comunità, anche loro mi hanno spiegato poco difficile, però nella fede andiamo avanti con Gesù. Certo, con speranza, sì, certo. Sì, sì. E quindi ecco, appunto, da coordinatore della comunità cattolica cinese, qual è il suo impegno per la comunità cinese in Italia? Allora, per noi, io lavoro coordinatore da 2016, più o meno 4 anni fa. Sì. Per me più difficile, non è difficile, l'impegno per la qualche comunità manca capellano, o cambio lavoro, o mandare nominale qualcosa. Questo per noi, per me è poco difficile, per me è poco impegno, perché io lavoro a Napoli, devo lasciare mio parrocchia, lasciare mio lavoro, andare per esempio a Milano, l'anno scorso Pasqua ho nominato un capellano nuovo, io ho passato, quando vecchio è andato via, nuovo non arrivo, 4 mesi, io ogni domenica andato e ritorno, poi quando c'è un nuovo capellano, tutti i documenti, convenzioni, fatto bene, poi lascia. È un grande impegno, sicuramente. Sì, c'è qualche problema, anche dialogo con Puglia, qualche dialogo con Puglia, ufficio, lavoro, non è molto poco lento, sicuramente. comunque, Io piace per mio questo responsabile, perché sacerdote dobbiamo missione, andiamo avanti così, certo, un passo alla comunque. Sì. Un passo alla volta. Grazie. E allora ecco, noi la ringraziamo per la sua partecipazione, la sua testimonianza, e grazie, ci auguriamo di vederla a questo punto alla 13ª edizione della Festa dei Popoli il prossimo anno in piazza. Grazie, Annamela, grazie. Grazie, grazie mille. Ok, saluto. Ciao. Grazie, un saluto da parte mia, di Antonella, l'altra conduttrice, e chiaramente da parte di tutto lo staff della Festa dei Popoli. Grazie, anche. Ci vediamo prossimo. Grazie. Ciao. Va bene, grazie, ciao. Alla prossima. Ciao. Prossima, ciao. E passiamo di nuovo la linea ad Antonella, ormai siamo una staffetta perfetta. È l'ultima staffetta, Manu, siamo arrivati alla fine di questo percorso per quanto riguarda almeno il collegamento con le comunità. L'ultima comunità presente è la Georgia. Mandiamo il filmato e ci facciamo un po' gli occhi con le bellezze della Georgia. Eccoci in diretta, bellissimo video, e buonasera e benvenuti alla comunità della Georgia. Chiudiamo questo percorso di questa strana edizione della Festa dei Popoli. Buonasera e benvenuti, ci siete? Buonasera, vi salutiamo da Salerno, comunità georgiana. Quindi siete collegati da Salerno, ho capito bene? Se riuscite a parlare un po' più vicino, mi dicono dalla regia, perché vi sentiamo male. Sì, vi colleghiamo da Salerno. Ok, allora un saluto, ricambiamo da Salerno il nostro saluto. Veniamo subito alla prima domanda. Voi come avete vissuto questo momento difficile di chiusura del lockdown come comunità, logicamente? Anche per la comunità georgiana, cioè era molto dura, è un po' che non credevamo che sta succedendo. Con tempo ci siamo abituati e stiamo riuscendo da questa situazione e riprendiamo la vita quotidiana. Ok, anche voi mi sentite? Perdonatemi, ho perso il... Sì, parla. Ok, anche voi presente negli ultimi anni alla Festa dei Popoli, presenti in piazza, diciamo perché partecipate alla Festa dei Popoli? Pronto? Avete sentito la mia domanda? Sì. Se facciamo conoscere ai nostri amici il motivo per cui anche voi come comunità georgiana partecipate alla Festa dei Popoli? Conoscere le culture diverse dalla nostra. E di far conoscere anche la vostra, logicamente, sì. Io non sento... Si sente male, forse? Ecco. E l'assist per farvi la seconda domanda, appunto, cosa ne pensate di questa edizione social, con tutte le sue difficoltà, immagino? Piacevole comunque, ma speriamo che la prossima volta ci vediamo dal vivo. Certo, anche noi ce l'auguriamo, è un modo comunque, un ponte per vederci oggi, per dire che noi ci siamo, voi ci siete, sempre un momento di ricchezza incontrarci, ma lo faremo presto in piazza e potendoci abbracciare e viverci, ecco. In questo momento, giusto in due parole, com'è la vostra situazione nel vostro paese? Come stanno vivendo questa pandemia? Ma anche in Georgia era una situazione molto tesa, però abbiamo affrontato, adesso sta prendendo la vita quotidiana piano piano anche la Georgia. Ok, allora un saluto a tutti i georgiani che sono connessi con noi e ci lasciamo se volete fare un saluto, un augurio. Grazie, vi salutiamo, auguro a tutti buona salute, serenità e tanta felicità. Ciao, vi salutiamo. Ok, allora vi giungo anche il nostro abbraccio, il nostro saluto. E ci rivediamo presto in piazza. Adesso vi lasciamo con un piccolo contributo di una scorsa edizione. Un bacio da tutti noi. A presto. E grazie per esserci. Ecco, cari amici ascoltatori, stavate ascoltando una bellissima voce direttamente dalla Georgia, dalla Festa dei Popoli del 2019. Io sono Tony Lion in console, ho preso il posto di Giulio, è stato... doveva andare via un attimino. E niente, volevo sottolineare l'importanza dell'Italia proprio nel rappresentare un crocevia nella storia e che oggi il 2020 vede con tutte queste feste dei popoli, come abbiamo ascoltato, Siracusa, Roma, Salerno, vede proprio rappresentare tutti questi secoli di storia che sono passati attraverso il nostro territorio. E ogni popolo ha lasciato qualcosa nel nostro territorio. E quindi la cosa bellissima di questa festa è proprio la diversità, l'integrazione tra la diversità. Ed ecco, è finito il video, vi lascio di nuovo a Manuela. Siamo alla fine di questa 12ª edizione della Festa dei Popoli e concludiamo dando la parola al padrone di casa, praticamente, padre Giuseppe Vignato, dei missionari saveriani. E chiediamo, chi sono i missionari saveriani? I missionari saveriani sono una congregazione religiosa missionaria che... sparpagliata, possiamo dire, perché lavora in tutti i continenti. Io in modo particolare ho lavorato nella Repubblica Democratica del Congo per 21 anni e apportiamo, oltre alla parola di Dio, certamente tante altre attività di sociali, di opere, di costruzioni, di sanità, di educazione e tante altro. Allora, da sempre siete fra i promoter in qualche modo della Festa dei Popoli. Cosa vi spinge, ecco, a promuovere questo evento e a partecipare sempre con un grande sostegno? Ma questo già è dalla base della nostra spiritualità. Il nostro fondatore ha pensato a questa congregazione proprio per fare del mondo una sola famiglia. Quindi tutti i popoli che siano fratelli proprio in Gesù Cristo, nell'amicizia, nella condivisione di tutte queste culture, tutti questi rapporti, queste persone che sono, mi dicono che devo guardare in alto, e che sono una ricchezza. Ecco, proprio quell'arcobaleno che porta nella sua bellezza proprio perché è pieno di colori, cioè tutti i colori che messi assieme, ecco, formano un colore che è l'umanità, l'uomo, e questo uomo, ecco, che sia un uomo solidale, accogliente. Allora ringrazio siamo ancora nella persona di Padre Giuseppe, i missionari saveriani, anche per l'ospitalità, perché stiamo trasmettendo, ecco, da casa loro praticamente. Siamo pronti, stiamo per finire, insomma andiamo allo spot. Lo spot è la festa dei popoli e chiamiamo a illustrarcelo in realtà il coordinatore della festa dei popoli, il factotum, il direttore dell'ufficio migrante, Sant'Antonio Bonifacio. Sì, mettete la mascherina e venite. Eccoci di nuovo. Allora, ecco, è andato in onda lo spot. Quest'anno abbiamo scelto uno slogan dopo l'esperienza del lockdown, che è tempo di sorridere, è tempo di tornare a sorridere insieme. E questo è stato un modo con cui abbiamo voluto vivere la festa dei popoli quest'anno, sebbene distanziati per lo spazio, comunque siamo in connessione tra noi, in relazione tra noi. Il gesto di togliere la mascherina è un po' proprio per far vedere questo sorriso. Ovviamente anche noi abbiamo mantenuto il rispetto di tutte le regole che in questo momento complesso per tutto il mondo sono imposte. E come in tutto il mondo, ecco, abbiamo potuto ascoltare come questo virus stia contaminando un po' tutti, nella speranza di superarlo. Adesso, come ogni fine della festa, lo staff della Festa dei Popoli si riunisce alle mie spalle per la foto di gruppo, con le mascherine e un po' di distanziamento, per ricordare proprio questo momento. Ringrazio tutti gli amici dello staff, dalle presentatrici alla regia. È stato un lavoro diverso, non facile, perché non siamo professionisti di questa tecnologia, però ci siamo impegnati e speriamo che vi sia piaciuta, speriamo che sia stata interessante, speriamo che abbia consentito di vivere questo momento insieme, connettendoci ad altre comunità e raccontando un po' quello che stiamo vivendo. Grazie a tutti per averci seguito e sicuramente ci vedremo l'anno prossimo, oppure speriamo ottobre per la festa dei popoli in piazza. Grazie Antonio, lo speriamo tutti. Io voglio ringraziare ancora una volta l'ufficio Migrantes Arcidiocesi di Salerno e tutte le associazioni, tutti i popoli che hanno partecipato a questa edizione della Festa dei Popoli 2020 Special Edition, tutti gli amici che ascoltano Radio Migrante. Bene ragazzi, è stata una domenica molto veramente special. Giulio vi saluta, anche se non è qui, purtroppo lui è padre di due bambini, quindi anzi non purtroppo, fortunatamente è padre di due bambine e è dovuto scappare perché sono piccoli, quindi io tocca a me dare il saluto di questa chiusura sul live di Spreaker. Ringrazio tutti gli ascoltatori di nuovo, tutte le associazioni, tutti i popoli che hanno partecipato alla Festa dei Popoli. Buona domenica e a risentirci a presto.